Facciamo questo presidio sotto la regione alle 2:30, perché non più tardi di 15 giorni fa, con un vero e proprio colpo di mano, l'assemblea regionale, praticamente tutti i gruppi consiliari, con l'eccezione di Europa Verde e del gruppo misto che non hanno partecipato al voto, ha deciso di prorogare gli affidamenti del servizio idrico fino alla fine del 2027. L'unica eccezione riguarda i territori di Reggio Emilia e di Rimini, dove sono in corso procedure di gara, ma per quanto riguarda appunto il resto del territorio regionale si va a prorogare tutte le scadenze fino al 2027. Faccio presente che questo è un grande regalo in primo luogo rivolto a ERA, perché a Bologna la concessione del servizio idrico sarebbe scaduta alla fine di quest'anno, poi alla fine del 2023 andava a scadenza la concessione a Ravenna e a Forlì, alla fine del 2024 a Modena e a Ferrara. Quindi in buona sostanza, con la scadenza della concessione, noi appunto a tempi così avvicinati ci saremmo trovati di fronte alla possibilità finalmente di ripubblicizzare il servizio idrico, di dare corso all'esito referendario di 10 anni fa. Ebbene, appunto, arriva invece questa decisione, che è una decisione che sostanzialmente sposta in avanti tutte quante le date e rende nei fatti impossibile discutere oggi della possibilità della ripubblicizzazione. Quando la settimana scorsa, insomma qualche giorno fa, avete sollevato il tema, il capogruppo di Emilia Romagna Coraggiosa Igor Tarù, diciamo, ha replicato alle vostre posizioni dicendo che in realtà questo voto serve per dare il tempo allo studio dell'Università di Bologna per verificare appunto la fattibilità della ripubblicizzazione e per spendere i soldi del PNRR che vanno spesi in 5 anni, quindi alle aziende che attualmente gestiscono il servizio servirebbero appunto, serve continuità per poter gestire questi fondi. E voi cosa rispondete? Ma noi diciamo che ci sembrano argomentazioni destituite di fondamento. Anch'io ho letto la posizione espressa da Taruffi e in sintesi i nostri ragionamenti sono i seguenti. In primo luogo, il fatto che ci sono investimenti che provengono dal PNR non determina di per sé il fatto che ci sia la necessità di continuare con le gestioni esistenti, perché in caso di subentro di un nuovo gestore, il nuovo gestore, come dire, deve portare avanti gli investimenti già programmati dal precedente. Quindi l'argomento continuità della gestione è assolutamente inesistente. In quanto al fatto, diciamo, della teoria della riduzione del danno, si prorogano le scadenze di 7 anni anziché di 30, come sarebbe successo andando a gara, faccio notare 2 cose. La prima è che non c'è nessun obbligo di andare alla gara esattamente alla scadenza della concessione. Ci si può prendere un po' più di tempo, perché ovviamente nel momento in cui scade la concessione, fino a che non c'è un nuovo gestore, procede automaticamente la vecchia gestione. E tu ricordavi che appunto stavamo iniziando un percorso, anzi vogliamo continuare un percorso con gli amministratori locali, anche con l'Università di Bologna, per fare uno studio di fattibilità sulla ripubblicizzazione, in specifico su Bologna. Avevamo già fatto una prima riunione e ci eravamo dati una tempistica per arrivare alla primavera ad avere questo studio fatto. Si poteva benissimo aspettare qualche mese e vedere poi su quella base appunto di poter procedere alla ripubblicizzazione. Un'ultima annotazione, appunto, non solo non c'è l'obbligo di andare a gara alla scadenza predefinita, ma appunto quando scade la concessione o eventualmente anche un po' di tempo dopo, appunto non esiste solo la strada della gara, esiste la possibilità di costruire una nuova azienda pubblica, appunto di procedere alla ripubblicizzazione. Quindi in buona sostanza questi ragionamenti non mi pare che stiano granché in piedi. In realtà appunto si sposta tutto di 6 anni, si fa questo grande regalo a ERA e si impedisce di discutere oggi come era possibile della ripubblicizzazione. Ti chiedo di ricordare allora l'appuntamento di domani. Sì, domani siamo sotto la regione alle 14:30, siamo per ricordare alla regione che è stato fatto un colpo di mano, che questo colpo di mano è in contraddizione con l'esito referendario, che bisogna rimediare appunto a questo colpo di mano, la regione deve tornare sui propri passi. Ovviamente per noi domani è un primo appuntamento, perché poi continuerà la nostra iniziativa e la nostra mobilitazione nelle forme adeguate anche dopo l'appuntamento di domani pomeriggio, che è una prima risposta a questa scelta per noi completamente inaccettabile.